Buonasera a tutti, questa qua è One Tree Boots One Two Radio Wombat. Purtroppo oggi sono da solo perché mio compare è NN, che ha due versioni non name, o se no solamente nonno, e non, purtroppo è morto sul letto più o meno, e quindi non è potuto venire oggi. Vabbè, pace, facciamo tutto a me oggi, e mi spiace soltanto che la puntata è andata in streaming molto molto molto più in ritardo, ma abbiamo avuto dei diciamo piccoli problemi tecnici che banalmente io mi scordo sempre, purtroppo. Bene, però oggi è una puntata abbastanza speciale perché, come abbiamo fatto una puntata scorsa, abbiamo parlato di un'etichetta, la Last Decay di Modena, però oggi andiamo molto, molto, diciamo, sul nostro territorio fiorentino, via, e limitrofe, potremmo dire. Infatti qua con me c'è un carissimo amico, Francesco, che è della Ponticina Records. Ciao a tutti. Bene Francesco, intanto ti ringrazio per essere venuto qua e perdere tutto questo tempo. Grazie a te, figurati invece di avermi invitato qua in trasmissione. E dai, raccontaci un pochino dell'etichetta tua. Ok, allora, Ponticina Records nasce nel 2013, praticamente siamo io e un mio carissimo amico che adesso sta a Padova, però prima abitava a Prato, tipo in casa con me, eravamo coinquilini, avevamo entrambi tipo una nostra etichetta, e dopo un po' abbiamo capito che era una cosa stupida girare per gli stessi posti con gli stessi dischi e gestirsi due etichette differenti. Quindi ci siamo detti: perché non uniamo le nostre forze e facciamo una nuova etichetta? E così è nata Ponticina Records. Ora lui sta a Padova, non sta più a Prato, però ci gestiamo al meglio la cosa, tipo, quindi le stesse cose che magari trovate da me non le trovate da lui, a parte le nostre produzioni, perché magari uno fa scambi differenti e così, e ce la gestiamo così. Certo, ovviamente certo. È un'etichetta do it yourself. Naturalmente, dobbiamo subito specificarla, visto che noi si parla soltanto di musica underground e non musica in cui potreste vedere i gruppi suonare tipo nei stadi. Magari uno stadio potrebbe essere occupato per farci un concertone da Madonna, però basta, c'è poco da dire, via. E, niente, e io direi di mettere un pezzo di un gruppo della playlist che ci ha portato Francesco. Sì, ok, ho portato un po' di canzoni che praticamente sono di gruppi di cui abbiamo prodotto il CD o il disco. Il primo gruppo è un gruppo che sta tra Pisa e Lucca, si chiamano Butters, sono un gruppo molto giovane ma molto valido. Hanno già suonato diverse volte qua nell'Interland fiorentino, e non so se li avete visti, li riconoscete di sicuro, se non li avete ancora visti rimediate al più presto. E il pezzo che sentirete adesso si chiama Human Stink ed è tratto dal loro disco d'esordio che si chiama Butters, è un CD, un mini CD. Bene, bene, io vorrei subito dire che i Butters me li sono goduti quelle due o tre volte che hanno suonato nei pressi fiorentini, se non erro, due o tre volte? Sì, sicuramente due volte hanno suonato, che io mi ricordi qua, okay, a Firenze. Ok, ed era Next Emerson, giusto? Sì. Però guarda, guardate, ve lo consiglio a tutti di comprare il loro CD e magari vederlo in live, perché emanano una grande energia che, guardate, meritano veramente tanto. Spaccano, in poche parole, via. Sì. Bene, ora metteremo i Butters con Human Stink. Questa qua è Radio Wombat, One Tree. Boots, One Two. We'll be right back. bene, questi qua erano i Butters. Come avevo detto, emanano una grande energia che è veramente formidabile dal mio punto di vista. Poi naturalmente, se Francesco vuole dire qualcosa su questo gruppo, dei, diciamo, i suoi gusti personali, ci farebbe anche un grande piacere. Su questo disco? Su questo disco, su questo gruppo in generale. Sono, come ho detto prima, sono una bomba assoluta, sono giovani, quindi bisogna supportare, indistintamente bisogna supportare i gruppi che comunque suonano così, ma soprattutto se sono giovani bisogna incentivarli ancora di più a suonare, andare a giro e niente, fare la musica che gli piace. Sì, perché secondo me anche se un gruppo, che ne so, all'inizio può fare un po' no? Però diciamo se gli supporti così via e magari senza infamarli dici guarda, secondo me non va bene questo, potete andare anche oltre quello che state a fare, giusto? Si può fare anche così, potremmo dire. Sì, cioè, non è il caso di questo, infatti, non è il caso di questo gruppo, esatto. Però sì, parlando in linea generali, di comunque incentivare a provarci e provarci, poi se uno non ci è portato, cioè non è detto che ognuno deve suonare per forza. Esatto, appunto. Esatto, se no si può dire sti cazzi. E poi anche se non sai suonare, pace, l'importante è che ti diverti. Infatti, cioè che ti potresti travestire da pollo durante i concerti, fare il casino, se no andando avanti anche con vari costumi, eccetera, no? Sì. Ebbene, ci vorresti dire un altro gruppetto interessante che vorresti far conoscere ai nostri ascoltatori? Certo, un altro gruppo che abbiamo coprodotto sono i The Seeker, sono un gruppo dell'Interland milanese, sono quattro ragazzi di cui due sono filippini e niente, sono però da tanti anni che stanno in Italia e niente, se vi piacciono gruppi come Charles Bronson, Drop Dead, Spaz, Scholastic Death, così avete trovato pane per i vostri denti, perché appunto i generi di riferimento sono quelli là. Questo è il disco che hanno fatto uscire, si chiama Malaya, è uscito anche per, oltre alla mia etichetta, anche per altre etichette, una indonesiana, uno sicuramente delle Filippine, scusate, l'altro tipo dal Belgio, mi pare, dall'Austria, quindi una coproduzione internazionale per un gruppo, cavolo, appunto, che cioè merita. Ora, tra l'altro, adesso credo che siano in tour. Mi sembra tipo anche in a giro me. Per l'Europa li sta portando un mio amico di Siena col suo furgone. Ah, grandissimo. Forse abbiamo capito già di chi parliamo. Via. Forse se lo conoscete anche voi, giustamente. Sì, ora staranno divertendo in qualche parte d'Europa, sicuramente. Sì, esatto. Bene, mettiamo subito questo gruppo, perché sì, naturalmente si tratta di un gruppo molto, molto lento. Quasi diciamo, in 2 minuti e mezzo vi sentite due canzoni. Esatto, cioè quindi è veramente molto, molto lento per le nostre orecchie. Esatto, sono due canzoni tratte appunto dal disco Malaya. Dai, allora, questi qua sono i The Seekers, questa qua è sempre One Tree Boots, One Two, Radio Wombat. Yeah! Bene, questi qua erano i The Seeker con due belle canzoni. Cioè, puoi dire te i titoli, visto che il mio inglese non è il mio forte. Vabbè, allora, la prima canzone si chiama Jean-Claude Van Damme You e l'altra è I'm Sick Ho. Buono, buono, buono. E diciamo, con la tua etichetta alla fine hai sempre coprodotto gruppi che diciamo sono sempre stati nella scena underground, giusto? Sì, assolutamente sì, c'è una scena underground e do it yourself, non... Però sempre che non diciamo nei soliti generi, via. No, cioè i generi, allora, diciamo che di base siamo nel gran calderone del punk hardcore, ma punk hardcore, cioè, vuol dire tutto e vuol dire niente alla fine, cioè abbiamo, appunto, come ho detto prima, siamo due a gestire l'etichetta e ognuno di noi due ha gusti completamente differenti, cioè c'è una linea di base, però per esempio a me magari piace più il power violence, il fastcore e l'hardcore melodico, invece al mio socio piace di più il grindcore, noisecore, sta roba qua un po' più estrema e niente. E quindi facciamo cioè le linee appunto sono comuni, però come è giusto che sia, ognuno ha i nostri gusti e magari produciamo un gruppo perché magari a uno piace a me, un altro piace a lui. Così, per essere anche più variegati e non focalizzarci solo su un unico genere musicale. Sì, perché mi sembra che alla fine alcune etichette in Italia si focalizzano, diciamo, soltanto su un genere in particolare, no? Giusto? Sì, ma cioè, nel senso, ognuno giustamente fa quello che vuole. Se Sì. vuoi fare solamente dischi noisecore suonati con tipo dei cucchiai sbatacchiati su delle pentole, Tipo con queste chiavi, cioè, lo puoi tipo. fare. Non ci vedo nessuno, nel senso, non ci vedo niente di male. Esatto. Via, dici un altro gruppo che vorresti far ascoltare ai nostri ascoltatori. Allora, un altro gruppo sono i Belzebit, sono un gruppo di Padova, fanno grindabilly, cioè praticamente mischiano l'immischiabile, ma lo fanno alla perfezione praticamente. Perché appunto mischiano grind, psicobilly, rock and roll, è una sana dose di noise e quindi viene fuori, appunto, non saprei spiegarvelo a parole, ora ve li faccio ascoltare appunto perché secondo me a parole non rende neanche bene l'idea. Esatto, perché alla fine io li avevo già belli visti una volta qua a Firenze, a Next Emerson, e rendono parecchio, rendono molto molto parecchio. Cioè, immaginatevi un gruppo grind che alla fine suona con il contrabbasso, se non erro, Sì, giusto? non hanno il basso, ma hanno il contrabbasso. Esatto, cioè una cosa boh, che non riuscirei nemmeno a immaginare nel mondo del grind, che poi alla fine, vabbè, il grind, diciamo, è un genere molto estremo, quindi non ci si può aspettare, diciamo, una linea basica per tutti i gruppi alla fine, no? Sì, no, certo. Bene, dai, mettiamo i Belzebit con il pezzo Belzebit. Esatto, sono due canzoni in successione, la prima si chiama Belzebit e la seconda si chiama Chicken's Fight e entrambe sono tratti dal loro disco di esordio che si chiama Mond Thresho, ora Strange Walk on the Filthy Side, cioè un po' più lungo, secondo me non lo potevano trovare, però grandi. Ok, e niente, adesso il nostro gran Enco ve le farà ascoltare. Tutte e due a diritto, senza fermarsi, ok? Come Via. un treno. Esatto. Dai, questa qua è One Three Boots, One Two, Radio Wombat. Yeah. Bene, questi qua erano i Beats & Beats, un gruppo veramente assurdo, no? Sì, esatto. E, però, guarda, ripeto, ve li consiglio di ascoltarvi per bene attraverso il loro disco, o se no di andarvi a vedere qualche live che veramente meritano, meritano tanto. Sì, Che esatto. poi, no, cioè, ripeto, non ho mai visto un gruppo grind mischiare anche i rockabilly, psycho, rock and roll, cioè una cosa veramente assurda. Bene, caro amico mio, cosa ci consigli ora di ascoltare? Allora, adesso ascoltiamo questa qui, è un'uscita proprio che ancora fisicamente non ha, almeno io non ho ricevuto le copie perché è proprio fresca fresca. Forse il disco è uscito sicuramente perché in giro ci sono già delle recensioni, cioè forse l'ha ricevuta il mio socio a Padova le copie fisiche di questo disco, che il gruppo si chiamano The Kinnox, sono un gruppo di Alessandria che ci sono degli ex membri dei Deep Throat che non so se li conoscete. E fanno punk rock, anzi, punk rock, speed rock. Interessante, cavolo, poi ex membri di quel gruppo che alla fine chi non li conosce si deve fare una bella cultura. Che tra l'altro, se non ricordo male, il primo gruppo che ho coprodotto in assoluto, cioè il primo disco che ho prodotto in assoluto nel lontano 2000, 2008-2009, non mi ricordo, con la mia prima etichetta, è stato appunto lo split tra Deep Throat e Carlos Dunga, se non mi ricordo male. Ci potrebbe stare alla fine. No? Sì, esatto, cioè, era quello, se non ricordo male era quello. Dai, bene, mettiamo altri due pezzi sempre a diritto di un gruppo. Questa volta invece si tratta dei Kin, poi Dei ripeti, Kinnox dei Kinnox. sono di Alessandria d'Egitto, no scherzo, sono di Alessandria tipo in Piemonte Buono, e niente. buono sapere. Bene, noi mandiamo tutti e due pezzi a diritto e come sempre questa qua è One Tree Boots One Two di Radio Wombat. Però mi sembra bello specificare che il mio amico è venuto fin qua in studio per parlare della sua etichetta, anche se non si tratta di street punk o come vogliamo fare io e l'altro mio collega, però ci sembrava giusto supportare le etichette locali alla fine, diciamo fare piccolo spazzino pubblicitario. Appena vedete un concerto, zone tipo Fiorentina e così via, andate a vedere il banchetto di Punticina Records, che veramente c'ha dei bei dischi. Naturalmente con la playlist che ha voluto fare il mio amico, non è che ci sono tutti i dischi che alla fine c'ha nella distro, giusto? Allora, di questa roba che sentirete oggi ho tutto, perché appunto Ah sì? sono coproduzioni che abbiamo fatto. Alcune che poi sentiremo più avanti devono ancora uscire, però sono già in cantiere, sono già progettate così. Però appunto di quello che sentite, se lo trovate, lo No. potete trovare o ai concerti oppure se cercate su Facebook, sui social media, cercate Punticina Records, ci trovate anche su. Cliccate il like Ci naturalmente. date su Discogs, ci date su Instagram, ci potete scrivere, dire oh, guarda, voglio questo disco, ce l'hai. O comunque c'è comunque un catalogo da cui potete scegliere. Cioè abbiamo anche un Diventate. sito che è un po' ancora in fase di sviluppo. Dai, buono come cosa, no? Sì, c'è ancora, diciamo, è allo stato primordiale il sito. Dai, questa qua è una bella occasione per diventare degli stalker di Punticina Records, dai. Dai, allora mettiamo questo gruppo con due pezzi a diritto e ripeto, questa qua è One Tree Boots, One Two, Radio Wombat. Twist. Hey, hey, Io direi veramente un bel gruppetto, sinceramente. Bravo Paolo, Paolo il buon Paolo Merenda sforna sempre gruppi fighi. Ebbene, su, andiamo avanti con la nostra puntata. Dici un altro bel gruppo da farci assaggiare. Allora, il prossimo gruppo si chiamano Persecution, sono inglesi. Il disco è uscito un po' di tempo fa, è uscito a fine del 2015, è uscito. Però appunto voglio farveli sentire lo stesso perché appunto secondo me meritano. Il gruppo è di Bristol, suonano un punk hardcore classico inglese degli anni Ottanta. Tra l'altro ci suonano, i membri sono ex membri di gruppi come Varukers, Ripcord, Extinction of Mankind. Quindi diciamo gente che sa cosa vogliono fare, esatto, insomma. Cioè, secondo me appunto ti stavo dicendo prima, mentre andavano gli altri pezzi, e i Grand Ankle, il prossimo pezzo secondo me, cioè il prossimo gruppo secondo me ti piace un sacco. No, e allora... Perché è più magari incline ai... conosco i suoi gusti e quindi magari più incline a queste cose. Sì, sì, per fortuna, però conosce troppi dei miei gusti, questa cosa non va bene. Bene, allora mettiamo il prossimo pezzo con i Persecution. Che si chiama Blind. Blind. Bel nome che suona abbastanza bene, via. Allora, questa qua è sempre 1-3 Boots, 1-2 Radio Wombat. Gruppo, davvero un bel gruppo. Infatti ho detto al mio amico Francesco di tenermi subito un disco loro, che alla fine meritano tanto dal mio punto di vista. Poi ognuno c'ha i suoi gusti, nel senso, ognuno c'ha le sue penne dell'inferno, potremmo dire. Bene, e ora dici subito quale altro gruppo vorresti mettere? Adesso sentiamo un pezzo dei The Loyal Wankers, sono un gruppo di Trento, anzi di Rovereto, tra Rovereto e Trento, che ci suona tra l'altro un mio amico che prima suonava negli Attrito, suonava, è un gruppo che conoscete, che immagino se seguite un po' la scena punk hardcore li conoscete sicuramente. E niente, questo gruppo qua sono un gruppo relativamente, cioè sono giovani, nel senso sono attivi da poco, da un annetto e mezzo. E niente, hanno fatto questo qui, è un pezzo tratto dal loro EP che si chiama Swamp, E niente, fanno lo-fi garage punk e il pezzo che ascolterete si chiama Jail. Bene, bene. Vorresti dire altre informazioni su questo gruppo o no? Beh, quando ho detto, sono di Trento, andateveli a vedere, comprate il loro disco. Hai detto tutto quanto, perfetto. E niente, non c'è altro da dire, cioè, nel senso, parlano i loro pezzi per loro, cioè, non credo ci sia niente da dire. Buono, buono, a posto, vai. Allora mettiamo il prossimo pezzo. Questo qua è sempre One Tree Boots, One Two, Radio Wombat. Bene, anche questo è un gruppo molto interessante, veramente molto interessante, però me lo vorrei godere in live, sinceramente, però secondo me è un buon gruppo, guarda, veramente un buon gruppo. E niente, cosa vorresti dire ora, quale gruppo ci vuoi suggerire per la nostra prossima colazione di domani mattina? La prossima colazione di domani mattina spero pizza. Ottimo. Abbiamo anche già altra roba che sta per uscire o è in prossimità di uscita o che comunque prevediamo di far uscire, che sono un disco dei Neid, che è una raccolta per il loro decennale, che non so di preciso quando uscirà, però appunto siamo già in contatto con loro, siamo già sentiti appunto per fare questa produzione. Poi il disco, uno split tra DeLorean e Du, che sono, i Du sono un gruppo di Pisa e DeLorean sono un gruppo di Firenze, fanno Power Violence entrambi, e appunto entro breve uscirà questo split, non so quando di preciso, saranno 7 pollici, e ovviamente non ho delle tracce da farvi sentire di questo split, però al buon Granenco ho portato dei pezzi di questi gruppi che adesso con le sue sapiente mani vi mixerà e vi farà ascoltare. Sì, sto mixando, via. Bene, dai, allora io direi di cominciare con i DeLorean, visto che è un gruppo locale fiorentino, se non erro, sì, giusto? Sì, sono di Firenze. E quindi dai, buttiamo subito i DeLorean. Qual è questa canzone? Allora, i pezzi sono presi da Alternate 1985, e appunto perché non ho i pezzi del disco che sta per uscire. E dici un pochino il titolo della canzone. Allora, le canzoni sono Darth Vader vs. George e DeLorean DMC. Ottimo. E invece dei Du? Dei Du? Siamo Buon Riso a Cattivo Gioco. A cattivo cuoco, scusate. E ho trovato il Sacro Graal e l'ho venduto per comprarmi la PS4, che secondo me ha fatto benissimo. L'avrei fatto anch'io, sinceramente. Bene, allora buttiamo un pezzo di DeLorean, un pezzo di tu, e poi dopo ributtiamo un altro pezzo di DeLorean, un altro pezzo di tu. Che ne dici? Fai come, guarda, sei tu il padrone di casa e. Dai, allora buttiamo questi due gruppi veramente carini. Questa qua è sempre One Tree Boots, One Two Radio Wombat. Pezzi veramente corti e interessanti, soprattutto per i due che hanno un testo veramente concreto, potremmo dire, Sì. come una patatina fritta. Bene, e purtroppo abbiamo avuto un diciamo, piccolissimo problema tecnico, quindi non potremo mettere un pezzo dei due che abbiamo promesso di mettere. Esatto, Ci dispiace veramente è tanto. andato disperso da qualche parte in qualche cartella che non doveva finire, quindi non è finito nella pennetta e purtroppo non ve lo possiamo far ascoltare adesso in radio. Andate a cercateli magari sul web, hanno un Bandcamp e lì potete ascoltarvi quello che fanno. Sì, esatto. Dai, allora buttiamo il pezzo di DeLorean e poi dopo metteremo l'ultima canzone che però ve la lasciamo come sorpresa, va bene? Ve lo diciamo subito dopo questo pezzo di DeLorean. Sempre 1-3, Boots, 1-2, Radio Wombat. Bene, sempre i DeLorean che alla fine si fanno riconoscere, via. Io direi tra un po' di chiudere bottega, come si suol dire, no? Con un ultimo brano di un gruppo, cos'è? No, è Dici una un one man po'. band, è un tipo coreano che appunto suona, ovviamente, cioè nel senso suona anche, fa anche live con una band dietro, non è che può suonare tutto da solo, Esatto, ovviamente. poraccio, se no Cioè, come cavolo fa? però appunto ha fatto uscire questo disco, cioè il disco in CD è uscito a settembre, lo scorso settembre. Noi invece abbiamo coprodotto la versione in vinile che dovrebbe vedere la luce entro breve. E niente, adesso vi facciamo ascoltare una canzone che è anche l'ultima della playlist che avevo preparato. E niente, godetevelo. E niente, vorresti salutare qualcuno a casa o amici, parenti? No, eccetera. In realtà non voglio salutare nessuno, perché di solito nelle radio dice voglio salutare Tizio, Caio, Sempro. Invece io no, non voglio salutare proprio nessuno. Se volete essere salutati, venite a quando mi trovate a giro col banchetto di Fontiscena Records, allora lì vi saluterò. Anche se non comprate niente, vi saluto lo stesso, esatto. Ve lo prometto. Diciamo buon sorriso a cattivo gioco, via. Anzi, buon riso a cattivo cuoco. Esatto, citazione. E almeno un ringraziamento vorresti fare? No, certo, ora stavo scherzando, volevo ringraziare te che mi hai ospitato appunto qui nella tua trasmissione, tutti i posti occupati che organizzano concerti, tutte le persone che supportano le realtà indipendenti. Buono. E che siano esse o centri sociali o etichette che producono dischi. Dai, buono, alla fine l'underground è questo, l'underground esatto. È questo, oltre concerti e così via, sbronze, marce e via dicendo, c'è dietro una grandissima passione che va al di là della musica, che c'è dietro l'amicizia alla certo. Fine. Nascono delle amicizie veramente stupende e non naturalmente come nella vita normale, però si tratta di tutt'altro campo della vita normale stessa. Cioè non si tratta del solito uomo d'ufficio che fa casa, lavoro e basta senza avere una vita propria. Perché qua c'è una vita propria, però che si va ad accumulare insieme ad altre vite. E ci si sente sempre coinvolte allo stesso modo, oltre negli spazi in cui c'è il concerto. Perché alla fine ognuno dei suoi spazi c'ha la sua politica, eccetera, sono tutti differenti, però nella sua indifferenza sono delle cose magnifiche, naturalmente. Yeah. Naturalmente tipo c'è spazio che organizza maggiormente i concerti o il punk, c'è spazio che organizza di tutto, e c'è spazio che organizza altro e così via dicendo. Bene, e se il nostro Francesco non vuole dire nient'altro... Sì, sentiamo appunto quest'ultimo pezzo, il tipo si chiama Octopulp. Niente, adesso Granenco lo troverà nel suo database personale, ve lo farà sentire. Io intanto vi saluto e niente, cercate la pagina Fontiscena Records sui social tipo Facebook, Instagram e Discogs, che non è un social, però ci trovate anche lì. Esatto, e se niente. No vi accoltella direttamente senza problemi. No, non è vero, non vi fate abbindolare da questo bravo ragazzo. Oh, bravissimo, guarda, non ci sto capendo un cazzo, però va bene, dai. Bene, ringrazio tutti di aver ascoltato questa puntata e lo troverete pure in podcast, sempre sul sito di Radio Wombat, che troverete su internet. Naturalmente noi abbiamo anche i Twitter, i Facebook, abbiamo pure le mail che posta wombat@insiberia.net. Quindi se vi interessa avere contatti con me stesso o con tutte le altre puntate che vengono fatte, potete mandare un'email e così via, anche minacce, cioè tanto noi mandiamo subito il cestino, no scherzo. Dai, e ancora grazie di tutto, che avete perso una buona parte della vostra vita per ascoltare un lurido stronzo che non sa che cosa fare la domenica. E questa qua è One Tree Boots, One Two di Radio Wombat. E vi saluto tutti, ciao a tutti. E con l'ultimo pezzo di questo tipo, One Man Band. Dai forte, buona domenica e buonanotte.